riposo per ore davanti a te, mi dipingi di sole anche se non c'è. Non so più dove finisco io e cominci tu.